29. La guerra non è davvero guerra finché il fratello non ammazza il fratello. È un detto francese, ma non so pronunciarlo bene quanto voi, signor Dalton. Quindi lo riporto nella nostra lingua, o meglio, nella lingua del regno per il quale dovremo combattere, uccidere e morire. Il colonnello Abercrombie fece una pausa effetto. Ma noi non abbiamo fratelli dall'altra parte, vero? Magari qualche lontano parente. E comunque, anche se li avessimo a quest'ora, li avremmo già risconosciuti. Passò il cannocchiale all'aiutante di campo e carezzò il collo del puro sangue che montava. Pare che per una volta gli Yankee intendano tenere la posizione e resistere. Sono ben disposti, non c'è che dire. Sullivan sa il fatto suo. Un'artiglieria decente, qualche divisa francese ed eccoli, mutati in armata. «Siamo appena fuori tiro, signore», disse l'attendente. «Gli uomini sono in riga». «Molto bene». Abercrombie concesse un'altra carezza all'animale. «Non resta che attendere l'ordine di Howe, allora». Le nubi si erano addensate fin dalla mattina, gonfie di pioggia, ma il tempo reggeva come per un maligno miracolo. Peter aveva dormito e mangiato male. Quella mattina, insieme al grosso dell'armata, aveva guadato il Brandywine a nord, compiendo un'ampia manovra per aggirare le truppe di Washington e attaccarle sul fianco. Nel frattempo i reparti di mercenari assiani simulavano un attacco sul guado più a sud per distrarre i ribelli. Reduce da quella lunghissima marcia d'avvicinamento, il corpo, giovane e rapido, si era mutato in un peso, come la divisa, come l'asta della bandiera. Peter sentiva le braccia dolere. L'asta sembrava di piombo mentre il vento gonfiava e agitava il vessillo del regno, vela esposta alla violenza degli elementi. Toccava a lui offrire il riferimento visivo al primo contingente di fanteria leggera che si apprestava ad assaltare la collina. La bandiera non era soltanto un simbolo, era l'ago della bussola, il vettore della disposizione in campo. La voce garrula del colonnello interruppe le considerazioni di Peter. «Tenente Johnson, oggi è il giorno buono per guadagnarvi una seconda medaglia. Portate gli Union Jack sul tetto del municipio di Birmingham e lo otterrete di certo. Se Dio vorrà, signore, non chiedo troppo la buona sorte». Il colonnello gli sfiorò una spalla con la punta del frustino. «La prima l'avete guadagnata nei boschi, combattendola a Petit Guerre, ma oggi, signore, oggi combattiamo la vera guerra!» ridacchiò nervoso. «Con tutte le regole!» scrutò il cielo. «E state sicuro che non sarà come a White Plain? Non pioverà!» L'umore ciarliero di Abercrombie tradiva nervosismo. Nessun altro aveva voglia di parlare lungo le fila di fanti schierati. La tensione serpeggiava muta. Un rullo di tamburi fece vibrare l'aria, ripetuto 3 volte. L'ordine di avanzata. Gli stendardi dei reggimenti si mossero. Peter si voltò a guardare Osborne Hill. Sulla cima, i generali Howe e Cornwallis puntavano i cannocchiali verso la collina di fronte. I cannoni tuonarono, mentre il suono acuto e penetrante delle cornamuse invadeva la spianata. Peter rabbrividì. Nei pochi secondi prima di costringere il corpo a muoversi, prima che l'orribile meccanica della guerra lo travolgesse, vide il volto della madre. Era infuriata, terribile. Guerrieri la seguivano, alti, ben fatti, dipinti di colori vivaci, l'espressione di chi è deciso a guardare in faccia la morte. La madre gridava di portarle il suo stallone nero, che non era più tempo di parole. Peter sentì le gambe muoversi. Il corpo sembrava in grado di marciare per conto proprio. In fondo, non aveva fatto altro per mesi. Il dolore alle braccia era lontano, in un angolo della mente, più distante dalla coscienza del battere del sangue delle orecchie. Le cannonate sconvolsero il terreno poco più avanti delle prime linee. Poteva vedere i sergenti chiudere le formazioni, rimettere i fanti al proprio posto, marciando a lunghi passi sui lati, sciabola sguainata, espressione torva. Il vento portava odore di paura. Rombi, esplosioni, grida. «Siete soldati di Sua Maestà, per Dio! Prima o poi saranno a tiro!» Peter pensò alle parole del colonnello. «La guerra non è guerra finché il fratello non ammazza il fratello». Davanti ai suoi occhi uomini, uomini e uomini andavano a morire in file ordinate. Marciavano finché il mondo non esplodeva. La terra sventrata, arti e teste volavano verso il cielo. La morte mandava odore di sangue, escrementi, terra bagnata. Le bocche da fuoco dei continentali tuonavano a ripetizione, aprendo cantieri nello schieramento inglese. Vuoti che dovevano essere riempiti di corsa dai rincalzi delle file posteriori. I picchieri avevano un bel da fare per tenere composte le formazioni. Ufficiali e sottufficiali esortavano e incitavano, rossi in volto. Peter guardava la scena come in sogno, dimentico della stanchezza, della pena per la sorte della sua gente, della fine del suo mondo. Cadevano le bombe, corpi schiantati si ammassavano. Una ventina di yard sulla sinistra, un capitano dalla divisa macchiata di sangue alzò la sciabola e arringò gli uomini. Un'esplosione lo cancellò. Zolle di terra e brandelli di corpi raggiunsero il portabandiera. Peter si irrigidì, chiuse gli occhi. Sentiva le grida dei sergenti. «Avanti per il re! Avanti!» Le prime file erano già sotto il fuoco di fucileria, ma anche i loro artiglieri dovevano aver avvicinato i pezzi e aggiustato i tiri perché iniziavano a centrare le difese dei ribelli, concedendo alla fanteria un po' di copertura e margine di manovra. Peter riusciva a distinguere le sagome degli Yankee sulla linea difensiva. Altri sparavano dalle finestre delle case del villaggio. Le prime due file di giubbe rosse si fermarono, una in piedi, l'altra in ginocchio, e risposero al fuoco. Terza e quarta fila passarono davanti e ripeterono l'operazione mentre gli altri ricaricavano. La marcia riprese, inesorabile. «Portabandiera Johnson!» Qualcuno urlava il suo nome. «Portabandiera!» Il colonnello lo sormontava dall'alto della cavalcatura. Peter si riscosse, cercò di trattenere il tremito. «Comandi, signore!» «Voglio vedere le nostre insegne su quella collina! Avanti! Fate vedere di che pasta siete fatto, per Dio!» Peter si spinse avanti mentre i corpi gli cadevano attorno. Erano ormai fuori gittata dei cannoni ed era il tiro dei fucili a richiedere il maggior tributo di sangue. La fucileria dei ribelli era fitta e precisa. «Dunque, questa è la mia morte», pensò. Avanzò ancora. «Dunque, questa è la mia morte». Una palla ruppe l'asta della bandiera, il vessillo finì a terra. Peter provò un senso di tetra liberazione e si lasciò scivolare giù. «Dunque, questa è la mia morte». Qualcuno gli piombò addosso. «Alzatevi, Johnson! Raccogliete la bandiera!» Era il sergente Bunyan, l'espressione pietrificata in una smorfia. Un proiettile lo centrò al petto, facendolo crollare a terra. Provò a rialzarsi. Gli mancavano le forze. Riuscì soltanto a far leva sui gomiti, cercando l'aria a grandi boccate. Peter si tirò su in ginocchio. Sentì l'ombra delle grandi ali su di sé. Sotto gli occhi attoniti del sergente si levò giacca e camicia. Bunyan deglutì. «Che diavolo fate?» riuscì a dire a fatica. «Finirete sotto processo!» Sotto processo. Peter non aveva mai udito parole più insensate. Quello era stato il giorno della morte insensata, ma lui non aveva vissuto senza un senso. Il grande rapace scendeva in picchiata. Peter si chinò. Raccolse terra intrisa di sangue e con le dita sporche tracciò sul volto segni rosso scuro. I corni da guerra suonavano l'assalto alla baionetta. Le file si scomposero. La carica dei soldati inglesi sprigionò un urlo omicida che sembrò far tremare le barricate e il grappolo di case sulla collina. Peter si alzò in piedi, il petto nudo e la bandiera in pugno. La puntò in avanti come una picca. Il grido di guerra del clan del lupo risuonò nell'aria. Il giovane guerriero Mohawk si scagliò contro la linea dei ribelli, veloci come il pensiero che gli attraversava la mente. L'anima aveva messo le ali.